Mi presento, sono Mario Fabbri, abitavo in via Matteotti 10, proprio accanto al parco Duca d'Aosta. Lì, già nell'86, c'era gente che girava, che mi prendeva delle misure. Quindi, memore dell'operazione del 75 di Santa Chiara, sono stato molto attento. Un amico della Croce Rossa, anch'io ero della Croce Rossa, e mi ha comunicato alcuni anni dopo, a fine 87, che c'erano degli impresari che prendevano delle misure. Ho cercato per vie non ufficiali, vie ufficiali, di capire. Ho capito che c'era un'idea di urbanizzare tutto quel perché era grandissimo quello, e quindi ho cercato di informarmi e ho scoperto che quel grande spazio lì interessava a gente del cemento. E la cosa non mi aggarbava tanto, perché capivo che c'era sotto forse una speculazione. Quindi ho cercato di approfondire e sono arrivato alla conclusione che quell'area andava protetta quell'area. Ho provato a sensibilizzare i residenti, però la risposta fanno quello che vogliono. Allora ho cominciato da solo, inizialmente, per un paio di anni, a sensibilizzare in modo diverso il regione, creando dei manifestini che era mia cura appenderli, facevo una copia in nero, tiravo delle copie, sono arrivato a tirare anche 1600 copie, poi le coloravo e poi le appendevo di giorno e di notte ovunque. Serviva poco. E malgrado tutti i miei tentativi verso l'amministrazione pubblica, e indubbiamente a loro interessava avere una grande per l'edilizia popolare, una grande area per l'edilizia popolare. No. Ho potuto avere il disegno del progetto, era devastante, perché cancellava tutte le piccole case che con grandi sacrifici avevano costruito e altri avevano anche i debiti di pagare. E quindi tutto quel territorio lì veniva messo a rado, insomma. No? Allora, ho insistito. Ho assistito a mia maniera, insomma, ho trovato la cooperazione perfetta dell'Adige, il giornale Adige, che mi ha sempre pubblicato qualsiasi cosa, qualsiasi mia lettera, che sono molto numerose, firmata cominciando da mia madre che aveva 100 anni. Ma anche questo serviva poco. Allora sono riuscito a recuperare i disegni vinti da un architetto di Bolzano, dei progetti, e sono entrato casa per casa e ho preso dopo il filo, insomma, casa per casa le fotografie dalle finestre che avevano un panorama. Sono rientrato a casa, ho preso i disegni, ho fatto un montaggio, sono ritornato in tutte le case dicendo: questa è la visione di prima, adesso è la visione di questo. Ho raccolto più di 1000 adesioni in brevissimo tempo, perché finalmente i residenti hanno recepito, non si erano assolutamente resi conto dove si andava incontro. Certo. E da lì è cominciata allora la collaborazione anche col Comune, nel senso che mi ha nominato responsabile. Referente. Sì. Referente per la popolazione, però le cose sono continuate a trascinare per un motivo o l'altro, avanti. E poi il Comune ha convocato un'assemblea generale del rione a Santa Chiara Vecchio, però senza nessuna collaborazione da parte del Comune. Allora ho cercato ad Arco un disegnere, mi ha fatto i disegni, mi ha fatto una proposta di costi e l'ho presentata. L'assemblea l'ha accettata. Ma disegni, scusa, per cosa? Disegni del parcheggio. Ah, del parcheggio. Del parcheggio e anche delle mie modifiche, insomma. Mm-hmm. E l'hanno accettata. E allora il Comune ha deciso di creare un gruppo di lavoro. Un gruppo di lavoro e avendo in mano un materiale preciso, e abbiamo di 11 persone abbiamo costruito un gruppo. E ho subito capito che non potevo andare d'accordo con questo gruppo. C'era gente, troppa gente che amava il cemento. È stato fatto un bando, poi ripetuto un bando, abbiamo vinto e allora ha cominciato le resistenze di parte degli espressi, di quelli respinti, insomma, quelli che hanno vinto le gare. Siamo andati più volte nei tribunali, abbiamo vinto un'altra volta e allora ho dato vita alla cooperativa in quel modo. Però io non avevo di certo i soldi per dar fondo, perché il comune giustamente chiedeva, come dirti, subito delle garanzie per il terreno, no? Era una bella cifra, insomma non sapevo più come fare. Poi gente che non conoscevo mi ha versato a testa 285 ognuno, 19 persone, senza chiedere una firma o una garanzia. Beh, lì poi ci siamo affidati al consorzio Lavoro Ambiente. Col consorzio Ambiente siamo riusciti a trovare un accordo perfetto. Abbiamo iniziato i lavori. Comunque il comune, nonostante, cioè c'era sempre... Al contrario, l'ha cercato. Sempre per fare il fine del mondo di bloccarmi tutto. Anche quando c'era durante i lavori e durante... Avevo mandato per esempio che noi Baltasore di Piante Grande, che era secolare, comunque di chi parlo, Luri, lì era proprio vicino alle case di via Matteotti, no? E che lo mandassi può spostare di 8 metri o 10 metri il progetto, ma lì che era impossibile spostare il progetto, è vero che era impossibile. Siccome dove scendere giù con la pianificazione per 16 metri, no, quindi da Galala a 8 metri, e se ne hai Orvieto, ho trovato l'impresa di Orvieto, che l'ha costruita, 40 cm, 16 metri, era una cadena. Allora, in pratica di inaugurazione, basta, siamo arrivati a... Certo. Ti è venuto subito in mente a te di dire facciamo un parco sotto il parcheggio, oppure... No, mi sono fatto i manifestini. Sì, no, ma l'idea... No, l'idea era quella. Sì, ma tua oppure magari parlando con qualcun altro? No, mia. Tua idea di dire, no, invece che fare... Ho detto officine che era dentro di tu. Sì, no, mi ricordo. Quelli che erano a parlare, che ti cancellare tu, che si fa il parco. Quindi infatti, quando questa è la garzone ufficiale, io l'ho nominato il comune, assolutamente, ho detto questa è un'opera privata, al merito va anche a tutti i residenti del rione, la Pociale.